E allora un primo collegamento con la piazza siamo riusciti a ottenerlo. Dunque, pronto? Pronto? Ciao. Pronto, ciao a tutti e a tutte. Ciao, ciao. Allora, come vanno le cose? Io mi sento abbastanza male. Adesso proviamo a vedere se aggiustiamo. Voi mi sentite bene? Noi ti sentiamo sufficientemente bene. Ok, aspetta un attimo che magari ci stanno un po' dei problemi solo di ricezione. Va bene, allora noi siamo qua numerosi e il presidio è parecchio bello, nel senso che ci stanno tutte le soggettività che stavano in piazza il 19. Siamo qua con saluto di solidarietà e con la richiesta ovviamente di riabbracciare subito i compagni e le compagne che in questo momento stanno subendo la convalida dell'arresto con l'interrogatorio, perché la procedura in atto che è scattata è quella che sono iniziati gli interrogatori e contestualmente all'interrogatorio che viene fatto ai compagni e alle compagne viene fatto di fronte al GIP, il quale deciderà sulla convalida dell'arresto e se ci saranno delle misure restrittive. Il PM chiaramente chiede la custodia cautelare in carcere e vedremo alla fine di questa giornata che si preannuncia lunga quale sarà la decisione del GIP. Per il momento da dentro non si sa molto, sembra che stanno più o meno a metà degli interrogatori e che comunque sarà lunga, per cui l'intenzione, l'interpretazione di quello che sta succedendo, quindi se c'è stato non solo in piazza direttamente il 19 la volontà unilaterale di effettuare questi arresti, evidentemente comunque non potevano accettare che un corteo come quello del 19 si fosse preso tutto lo spazio che voleva nella libertà di determinare quello che è stato quella manifestazione di rabbia, di protesta e di resistenza, dovevano in qualche modo rompere le scatole e effettuare degli arresti e in questo senso anche, no, come dire, accanirsi, lasciare la gente in carcere, usare procedure giudiziarie, penali che prolungavano la loro permanenza in carcere, eccetera, eccetera. Almeno questa è un'interpretazione che può essere data, possono essere date altre, capiremo meglio alla fine di questa giornata qual è anche la logica in termini appunto persecutori che c'è in campo in questa nuova inchiesta che apriranno il 19 ottobre. Però qua il presidio siamo bene, ci sono stati un sacco di slogan, di canzoni, di solidarietà portata da tutti quanti, è un presidio che comunque occupa uno spazio e ha una visibilità non indifferente. E questo insomma comunque ci dà forza, perché in queste situazioni tante persone tutti insieme comunque è una manifestazione di forza che ci serve anche a noi di fronte a quello che è l'accanimento del sistema repressivo. Beh, certamente è importante e è anche da sottolineare il fatto che questa volta, a differenza di altre, ci sembra che la questione della solidarietà nei confronti di chi è finito insomma in carcere sia stata assunta in maniera più responsabile e più ampia del passato, e questo certamente da annoverare tra i successi della manifestazione del 19, della manifestazione di sabato, perché evidentemente ha creato, no, la possibilità comunque di arrivarci e anche di gestire il post manifestazione in modo più unitario, e questo certamente insomma è un dato positivo. Sì, e io aggiungerei anche che è un dato politicamente presente al di là dell'estemporaneità e della contingenza del post manifestazione, e questo lo dimostra anche la partecipazione, come è stato il presidio sotto Piazzale Clodio del 17. In quel presidio c'era comunque una presenza larga, numerosa, è stato fatto un corteo e quindi in qualche modo è un passo in avanti di lettura e responsabilità di varie soggettività del movimento rispetto al discorso repressivo. per cui quello che c'è qua oggi è sicuramente il portato di la reazione e la voglia di stare vicino a chi è stato arrestato il 19, ma speriamo e sembra anche che è qualcosa che, insomma, che è un'assunzione di solidarietà e una posizione in termini politici che rispetto alla repressione che, diciamo, ci continui a dare forza a tutti quanti. E speriamo sì che sia scattato questo meccanismo in grado di allargare anche la rete della solidarietà, visto che, insomma, diciamolo pure senza nessun problema, questo è stato un problema, insomma, delle manifestazioni scorse, no? Nelle quali poi di fronte agli avvenimenti di piazza, diciamo più duri, alle forme di resistenza più dure, ecco, tante volte poi ci si è affrettati a operare nel senso dei distinguo, delle divisioni, e questo chiaramente ha portato anche a non così investire più di tanto nella questione, appunto, di riportare a casa tutti, che è uno slogan molto bello, ma che poi metterlo in pratica, trovarle le sue applicazioni concrete, insomma, a volte non ci si riesce sempre. Speriamo che questo sia un punto di partenza e ovviamente che si concluda con la liberazione di questi compagni e compagne. Peraltro, segnali positivi di solidarietà giungono anche ad altre città italiane, e questo è un'ulteriore prova del successo, diciamo, della giornata di sabato. Sì, assolutamente, infatti comunque speriamo veramente che questo sia l'inizio di una capacità più generalizzata di non lasciare nessuno da solo e di rifiutarsi di girarsi all'altra parte ogni qualvolta viene arrestato, viene repressa una lotta in qualunque forma, in qualunque città questa si manifesti. E quindi sì. Senti, in piazza ci sono anche questa volta gli occupanti di case, i migranti, cioè c'è un po' tutto quell'universo meticcio che ci ha molto colpito e in un certo senso anche soddisfatto, insomma, sabato. Sì, ci stanno più di 300 persone con tamburi, sonagli, trombe, megafoni. E un sole abbastanza battente, e quindi diciamo l'atmosfera è molto vivace, e quindi invitiamo tutti e tutte a raggiungerci, perché da qua non ce ne andremo finché non sapremo e non avremo capito che sta succedendo qua dentro. Va bene, allora ci risentiamo dopo. Okay, ciao, grazie. Ciao. Just had to take it on the chin.